Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlarti. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, io non so finito, sai, non so dirti come, quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi e mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non sono finito, sai, forse non sarà domani, ma vedrai che cambierà. Vedrai, vedrai, io non sono finito, sai, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà, cambierà.